Buongiorno anime, sono Barbara e mi sono svegliata 2 minuti fa. Quindi oggi la mia voce sarà un po' così, ma ci posso riuscire a fare questa meditazione con voi prima ancora del mio primo caffè. Questo è Yogurt Acid Care ed è il mio progettino di yoga. Io sono un'insegnante devota dello yoga. E non pretendo di insegnare niente a nessuno se non di condividere con voi quello che effettivamente è yoga per me. E quindi il Yogurt Acid Care è una visione estensiva di questa pratica che io vedo come cura radicale dell'individuo applicata in un contesto che è quello urbano dove viviamo. Siamo giunte all'episodio numero 7 su 14, che è stato più o meno l'obiettivo che mi sono posta, che è la durata della quarantena. Onestamente, per un paio di secondi ho ceduto al pensiero di farne un paio di meno perché questa quarantena mi sta un po' arrivando anche a me come intensità, ma no. Dai. Questi sono 14 giorni di mantra e pensieri sani per la nostra mente, perché sono carichi di prana e ci aiutano a settare la nostra giornata, quindi se continuerò a farlo per me, mi fa piacere condividerlo con voi. Se dovessi smettere di farlo è perché non sono più in grado di farlo con me stessa, ma penso non succederà. Però, I'm human. Ogni episodio di questi 14 va in onda alle 10 del mattino su Radio Virus, dove trovate in realtà in archivio anche altre 10 puntate dedicate ai 5 corpi dello yoga e ai chakra, healing the chakras. Se volete invece andare a vedere quello che è la mia pratica delle asanas, mi trovate su Instagram o su Patreon, su Gmail, ma su Gmail mi potete solo contattare. Su Instagram mi trovate come Barbara Lamulas e su Patreon Yogurt Acid Care. Thank you. La settima puntata è su un mantra che si chiama Om Bhavan Namaha. In più oggi parliamo anche dell'ultimo switch per la felicità. Andiamo con ordine. Che cosa sono i mantras? Di nuovo per la 500ª volta. I mantra sono cibo per la mente, per la nostra anima. Sono considerati bhajani. Il cibo reale è pujani, in sanscrito. Sia per il suono che per le vibrazioni connesse sono considerati avere una connessione diretta, ma anche il significato è molto importante. Possono essere verbalizzati, ma possono essere anche rappresentati in tante altre maniere. Abbiamo tutti visto i mandala e le rappresentazioni del Om. Fanno un po' anacronistico in Europa, però comunque ci sono. Chiaramente se aveste la possibilità di farvi un giro dove tutta questa cultura nasce, avreste un approccio un po', magari per chi è scettico meno scettico e per chi se ne appropria in qualche maniera un po' più rispettoso. Quindi oggi facciamo questo mantra, Om Bhavam Namaha. Abbiamo visto Om Namaha Shivaya, Om Mani Padme Ham, Soham, Sat Chit Ananda, Aham Brahmasmi, Aham Pranosmi. Oggi siamo a Om Bhavan Namah. Il mantra Om Bhavam Namaha si traduce con Io sono l'assoluta esistenza. Quando ci riconosciamo come pura esistenza, allora siamo in grado di trascendere tutto ciò che desideriamo, l'amore, l'odio, persino la gioia. È un mantra connesso con la saggezza associata al nostro ultimo chakra, il crown chakra, che sta alla sommità del nostro capo. Dovrebbe aiutarci come mantra ad raggiungere un punto di neutralità e formarci come pura coscienza, molto complessi come discorsi. Implica una sorta di separazione dai nostri desideri, dall'amore o da tutto ciò che ci sviluppa in qualche modo qualche sensazione o emozione. È un chakra della pura coscienza, è un chakra che trascende tutto ciò che è umano, tutto ciò che è verbalizzabile e al di là. Questo mantra ci invita a praticare pratyahara, che sarebbe la withdrawal of the senses. Come si dice withdrawal? Il controllare, eliminare i nostri desideri, i sensi. È una pratica molto austera. Quando però siamo in grado di praticare in qualche modo questo distacco, beh, a questo punto, piano piano, iniziamo a notare tutti i layers, gli strati sottili del nostro essere, secondo questa pratica, secondo lo yoga, secondo molta tradizione hindu, eccetera. Quando utilizziamo questo mantra, abbiamo la possibilità di lasciare andare giudizi, distrazioni, pensieri, in modo da poter riallineare il nostro sé innato o comunque il nostro potenziale illimitato, siamo in grado di manifestare la legge dell'attrazione, ha definito Deepak Chopra. La legge dell'attrazione è quella legge secondo cui tu pianti un semino con tutta la tua buonissima volontà, poi smetti di importartene, smetti di entrare in sbattimento per i risultati e lasci che il gentile universo faccia il suo lavoro. He defined it working his magic. Insomma, piantiamo un semino, poi lascia l'universo lavorare la sua magia, ma sii presente in tutto ciò e sii vigile. Io sono l'assoluta esistenza. Om Bhavam Namaha. Capisco che il mantra di oggi come significato può essere un po' difficile. Può essere un po' difficile, però proviamoci. Om Bhavam Namaha. Om Bhavam Namaha. Lasciamo andare i raga, martellavano nel nostro cervello, o perlomeno nel mio appena sveglio. Ci prepariamo alla nostra fase pratica. Facciamo qualche movimento per risvegliare il corpo. Stretchiamo le braccia, inspirando. Muoviamoci da un lato e dall'altro, facciamo due twist, li faccio con voi, ne ho un sacco bisogno. Se avete la possibilità di muovere bacino, zona pelvica anche, fatelo. Dopodiché trovate una posizione confortevole, sdraiata o seduta, con la pancia rivolta verso l'alto se sono sdraiata. Iniziamo la pratica con un piccolissimo percorso yoga nidra per poi introdurre il mantra Om Bhavan Namaha. Chiudiamo gli occhi e rivolgiamo tutta l'attenzione all'interno. Osserviamo il nostro corpo. Ascoltiamo gli appoggi del nostro corpo con le superfici. Senza giudizio né interazione, abbracciamo semplicemente queste sensazioni. Concediamo ad ogni espiro al nostro corpo un rilassamento totale e profondo. Iniziamo sentendoci i piedi. Li sentiamo inspirando ed espirando, li rilassiamo completamente. Poi sento il retro delle gambe, sino ai glutei, ed espirando lo lascio andare, per poi percorrere il fronte. Rilasso entrambe le gambe e rivolgo i miei sensi e la mia attenzione all'addome e al pube. Espiro dopo espiro, rilasso gli organi genitali e gli organi interni. Lascio andare il diaframma e sento il torace. Lentamente rilasso la cassa toracica, i polmoni, i bronchi, i bronchioli, lo sterno, le clavicole. Rivolgo i miei sensi alla colonna e percorro le vertebre dalle sacrali fino alle cervicali una a una, espiro dopo espiro. Lascio andare poi le spalle, percorro le braccia, sento il retro e lo rilasso, poi il dorso delle mani, le dita, i palmi, i polsi, percorro anche il fronte, rilasso le spalle, Sento e rilasso la gola e il retro del collo e rivolgo la mia attenzione al capo. Lascio andare completamente le tensioni dalla mia testa. Sento i capelli uno a uno e uno a uno li lascio andare. Sento la superficie del viso e il contatto con l'aria. Espiro, dopo espiro lascio andare le tempie, gli zigomi, le guance, le orecchie, la mascella. Rilasso poi completamente la bocca, dischiudo i denti e le labbra e con un espiro lascio che il mio viso sia sorridente e raggiante. Sento l'aria attraverso le narici. Rilasso completamente le vie aeree, poi gli occhi, le palpebre, le sopracciglia. Distendo i movimenti oculari, espirando. Rivolgo poi tutti i miei sensi al centro della fronte, al terzo occhio, l'incavo tra le due sopracciglia, dove convergono tutte le nostre attività neurali, ed espirando in maniera leggermente più profonda, cerco di appiattire queste ondine neurali e di fare nuovo spazio per l'attività del pensiero della giornata. Rilasso completamente la mia fronte. Osservo che succede all'interno, osservo il mio corpo, sempre più rilassato, pesante, inerme, a suo agio. Ad ogni espiro lo lascio andare un pelo di più. Sento il mio respiro più regolare e silenzioso dell'inizio. Cerco di osservare anche la mia testa. Osservo se la velocità dei pensieri è rallentato, se si è addirittura fermato il flusso. Se non si è fermato, è ok. Cerchiamo di mantenere il focus sul nostro addome. Sul respiro. Introduciamo lentamente il mantra di oggi. Om Bhavan Namaha. Om Bhavan Namaha. Liberissime di ripeterlo a voce alta o mentalmente. Om Bhavan Namaha. Ognuno di noi prosegue ripetendo il mantra durante la lunghezza dell'espiro, inserendolo non forzatamente, ma in maniera morbida e fluida durante la lunghezza dell'espiro. Non forziamo né il mantra né il respiro, cerchiamo di connetterli. Vi inviterò ad abbandonare la ripetizione del mantra con un suono di campanella. Ognuno adesso prosegue da solo. Om Bhavan Namaha. Om Bhavan Namaha. Thank you. mente e iniziate ad abbandonare il mantra. Fate qualche respiro più profondo per risvegliare molto gentilmente il corpo, rilassarlo e se volete interrompere la meditazione, prima di riaprire gli occhi, muoviamo le mani e riattiviamo il corpo. Lentamente poi riapriamo gli occhi. È tutto ok se volete continuare invece a meditare mentre finisco di blatterare. Om Bhavan Namaha era il settimo mantra. Oggi è la giornata in cui rivelo il settimo degli switch per la felicità, questi interruttori. Indovinate quale sarà? Forgive. Settimo, least and not last. Per avere una vita più gioiosa e più serena. Come si dice in italiano? Perdonare. Perdoniamo. Perdonare ha un significato ampissimo ed è una cosa complicatissima, lo so. Iniziamo magari perdonando noi stesse. I forgive myself for waking up very late. Mi perdono per essermi riaddormentata, aver dormito di sasso 1 ora e mezza ed essermi svegliata a 15 minuti dall'episodio. Spero mi perdonerete per la mia scarsissima prontezza e questa voce un po' impastata. Spero mi perdonerete. Quindi oggi ci concentriamo su questo sentimento del perdonare. È un sentimento molto simile a quello del lasciare andare. Smettiamo di aggrapparci su questi sentimenti che ci tengono lì bloccate e se riusciamo a perdonarli. Super, è un percorso, non è un click, come dice lui, interruttore più o meno. È un percorso delicato, è un percorso intimo e personale e ne vale la pena iniziarlo. Poi i risultati che otterremo li vedremo solo ex post, quindi tanto vale che non ci pensiamo. È un po' il discorso del mantra di oggi, Om Bhavan Namaha. Io sono la esistenza assoluta, pianto il mio semino, dichiaro la mia intenzione e la mia volontà, do il mio meglio ma mi tiro anche indietro e lascio lavorare l'universo. La giornata di oggi penso che sia completa con queste massime qua. Chiuderò l'episodio salutandovi e ci sentiamo domani.